Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi comunque ancora circola il virus da noi, questo è l'altro messaggio importante, anche se in calo, ma circola, e quindi in realtà non possiamo permetterci di allentare le misure di comportamento individuale. Possiamo permetterci di aggiungere livelli di libertà come stiamo facendo e vedere che impatto hanno queste sulle curve generali. Per cui nelle prossime settimane, credo già a partire dal prossimo fine settimana o quello successivo, certamente avremo dei dati che ci consentiranno di capire meglio come sta evolvendo questa cosa. Quindi insomma, naturalmente i dati sono abbastanza positivi, diciamo cautamente. Avete sentito il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che dice certo, naturalmente cala la curva del contagio, però non possiamo escludere che possa risalire. Quindi naturalmente gli esperti, Brusaferro fa parte poi del Comitato Tecnico Scientifico che coordina dall'inizio il governo sull'emergenza Covid-19, naturalmente sono sempre cauti, perché dice ovviamente purtroppo il virus continua a circolare, non è che ce ne siamo liberati. Si parla anche di possibili seconde ondate, per il momento nulla è certo, però è chiaro che bisogna stare allerta. Quindi questa cosa tra l'altro sta creando molta polemica nella inoltrata ormai fase 2 tra le regioni e il governo, perché c'è questo benedetto criterio di valutazione, insomma, dello stato di una regione, R con T, che quindi è il livello di contagiosità di ogni persona, e chiaramente in base a quello si capirà se il 3 giugno, quando dovrebbero essere aperte i confini delle varie regioni, chi potrà ripartire, chi no, dove si potrà circolare o meno. Oggi erano uscite varie notizie in cui si diceva che si muovevano solo le persone tra le regioni che avevano un livello simile di contagi, quindi si faceva l'esempio della Lombardia, Molise e Umbria, che potevano muoversi tra di loro. Poi è uscito un putiferio, però stasera il ministro Speranza, almeno una nota del Ministero della Salute, ha smentito che questo sia il criterio. Poi cercheremo quindi di approfondire, così come approfondiremo una notizia che riguarda il Ministero della Salute, che starebbe valutando di estendere il vaccino antinfluenzale, quello che si fa verso settembre, anche ai bambini da 0 ai 6 anni. Chiederemo a un'esperta appunto che cosa ne pensa di questa possibilità, che dovrebbe poi entrare in una prossima circolare. Non vi anticipo nient'altro, molte come sempre sono le cose anche in questa ultima puntata di fine settimana. Già si sente un po' la stanchezza, ma terrò duro anche questa puntata, perché gli argomenti sono tanti. Poi ci sono gli ospiti dopo la sintesi della giornata e i vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che gli sms e WhatsApp, se volete, al 349 238 6666. La pandemia in Italia prosegue la curva discendente, ma sono ancora 130 i morti in un giorno, terapie intensive sotto quota 600. Fase 2, presidenti di regione contro la movida, e in vista del 3 giugno e delle riaperture dei confini, il criterio della R con T per la libera circolazione diventa il pomo della discordia. Decreto rilancio, Conte assicura fondi a tutti i comuni delle zone rosse, intanto le inchieste delle procure entrano nel vivo e spuntano i primi indagati. Vaccinazione antinfluenzale, il Ministero della Salute valuta di estenderla ai bimbi da 0 a 6 anni. La strage delle donne, l'ultimo femminicidio oggi a Cuneo, dove un uomo ha ucciso a colpi di pistola la compagna. Disastro aereo in Pakistan, schianto in fase di atterraggio all'aeroporto di Karachi, si temono oltre 100 vittime. Lutto nel calcio, addio all'allenatore gentiluomo Gigi Simoni. Partiamo quindi come sempre dai quotidiani dati sul coronavirus forniti dalla Protezione Civile. Sono 228.658 i contagi totali per coronavirus in Italia, quindi dall'inizio, oggi 652 più di ieri. Di questi, 86.384 sono in Lombardia, che ne fa registrare 293 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Non ci sono segnali di pressione ospedaliera, la curva epidemica è stabile in calo, cresce la quota degli asintomatici. L'indice di contagio RT è segnalato sotto il valore 1 in tutte le regioni italiane, tranne in Val d'Aosta, dove si registra un valore pari a 1,06. Per la Val d'Aosta l'indice è un'oscillazione momentanea, mentre in Lombardia c'è un decremento giornaliero dei casi. Questi dati del report settimanale del monitoraggio sulla fase 2 dell'Istituto Superiore di Sanità. Il presidente Silvio Brusaferro avverte: l'obiettivo di tutti è evitare in una maniera assoluta che si verifichi verificano ripartenze di curve epidemiche che poi siano incontrollabili, sapendo peraltro che comunque ci aspettiamo che su base settimanale ci possano essere degli outbreak, ci possano essere delle ricrescite in singole parti delle regioni. Il neodirettore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, ha parlato dell'importanza di mantenere alta l'attenzione. I sistemi regionali siano in grado di identificare immediatamente eventuali focolai e valutare anche la resilienza del sistema. Sul fronte dei rimedi, in merito all'idrossiclorochina, si pronuncia il direttore generale dell'AIFA, Nicola Magrini. Sull'efficacia sappiamo poco, sui possibili danni, aggiunto, e assenza di sicurezza in alcuni limitati sottogruppi di pazienti, ne siamo abbastanza sicuri. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto i presidenti di regione si scagliano contro la movida in varie città, da sud a nord. In vista del 3 giugno e delle riaperture dei confini, il criterio R contiguo, quello della contagiosità per la libera circolazione, diventa il pomo della discordia, ne parleremo tra poco. E secondo un report di Morgan Stanley, su 110 candidati vaccini contro il Covid, saranno solo 6 ad arrivare al traguardo e a contendersi un mercato da svariati miliardi di dollari, ma le premesse ancora da verificare e che le prove cliniche ne confermino naturalmente efficacia e sicurezza. La corsa globale tra i 110 candidati vaccini contro il Covid-19 non avrà un solo vincitore, ma saranno certamente in pochi a contendersi un mercato per il momento potenziale, stimato tra i 10 e i 30 miliardi nella stagione pandemica del 2020-2022 e che continuerà nella successiva fase endemica, con previsioni che si aggirano tra i 2 e i 25 miliardi di dollari l'anno. Ad affermarlo uno studio di Morgan Stanley, pochi gruppi farmaceutici dunque che, a detta degli esperti, scriveranno la parola fine sulla pandemia che ha messo in ginocchio il pianeta. Solo 8 candidati sono nella fase di sperimentazione clinica sull'uomo, spiegano gli analisti americani, ma crediamo che ad avere una ragionevole possibilità di successo e a poter essere distribuiti su larga scala siano solo 6 vaccini. Il photo finish della ricerca globale vede primo a tagliare il traguardo nel quarto trimestre del 2020 il vaccino della cinese CanSino, a seguire nei primi 3 mesi del 2021 la statunitense Moderna, AstraZeneca con l'Università di Oxford, un progetto a cui collabora anche l'italiana IRBM di Pomezia, e poi Pfizer-BioNTech. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra l'altro, del vaccino in collaborazione tra Oxford e Pomezia abbiamo parlato più volte con Effetto Note, proprio con i protagonisti sia del laboratorio IRBM di Pomezia che con l'Università di Oxford. A proposito di vaccini, parliamo di vaccinazione antinfluenzale, perché il Ministero della Salute sta valutando di estenderla, quella che è disponibile poi da settembre, anche ai bambini da 0 a 6 anni. Sentiremo qui Effetto Note il parere di un'esperta. Poi la politica: comuni esclusi dai fondi per le zone più colpite dal Covid, il governo corregge il tiro. In Parlamento verrà presentato un emendamento al decreto rilancio per garantire aiuti a tutti i comuni dichiarati zona rossa. Ad assicurarlo ai suoi e anche il Premier Conte dopo le polemiche per l'esclusione di diversi comuni dal fondo destinato alle zone più colpite dall'emergenza Covid. Fonti del governo fanno anche sapere che le risorse saranno superiori ai 200 milioni inizialmente previsti dal decreto. Superato lo scoglio della sfiducia al guardasigilli Bonafede, Conte nel frattempo plaude al rinnovato sostegno all'esecutivo da parte dei renziani e assicura che verranno accolte le proposte di Italia Viva su infrastrutture e Family Act. Renzi rilancia proponendo un piano shock da 120 miliardi per sbloccare i cantieri, mentre il Partito Democratico fa sapere che la ministra De Micheli è al lavoro su un piano da 196 miliardi di opere già finanziate da realizzare nei prossimi 15 anni, con l'obiettivo di rendere disponibili entro il prossimo anno tra i 15 e i 20 miliardi, un progetto che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri a giugno, come allegato al DEF. Andrea Viali, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma. Proseguono in Lombardia le inchieste sulle morti nelle residenze sanitarie assistite, le case di riposo per anziani. Oggi pomeriggio, davanti al Pio Albergo Trivulzio, c'è stata a Milano una manifestazione dei familiari delle vittime. Ci faremo raccontare della manifestazione e anche degli sviluppi dell'inchiesta dalla nostra inviata. Parliamo di reddito di emergenza. A partire da oggi la domanda per il reddito di emergenza, cioè il REM, Possono essere inoltrate le domande all'INPS utilizzando il servizio online disponibile sul sito internet dell'istituto. Le domande dovranno essere presentate all'INPS esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta d'Identità Elettronica. Lo annuncia l'INPS precisando che per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato. Il REM è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, requisiti economici, patrimoniali e reddituali indicati dal decreto rilancio. Ora all'estero, l'Africa supera ufficialmente i 100.000 casi di coronavirus, anche se si tratta di un calcolo comunque parziale, considerando che molti paesi non sono in grado di fare gli screening necessari. Il dato emerge da un conteggio realizzato dalla France Press in base ai bilanci ufficiali. Si tratta in totale di 100.002 casi, tra i quali 3.095 morti e 39.070 persone considerate guarite. Il continente rimane il meno colpito comunque dopo l'Oceania. E se la Francia fa un passo verso il ritorno alla normalità con l'annuncio di elezioni locali, la Gran Bretagna aumenta il suo isolamento dal resto del mondo. La Francia riprende la vita democratica con l'annuncio del premier Philippe sul ritorno dei cittadini alle urne il 28 giugno. Un décret qui appellerà les électeurs à se rendre aux urnes. In conferenza stampa Philippe ha reso noto che i francesi potranno recarsi ai seggi con mascherina obbligatoria per votare al secondo turno delle elezioni municipali. Il primo si era celebrato a metà marzo, scatenando feroci polemiche sulla necessità di far muovere milioni di persone in piena pandemia. La campagna per i ballottaggi in 5.000 municipi, tra i quali la capitale Parigi, sarà essenzialmente digitale. Lo stesso voto sarà soggetto a un possibile ulteriore rinvio qualora la situazione sanitaria dovesse peggiorare. Questo mentre il ministro dell'economia Le Maire avverte che il gigante automobilistico Renault può scomparire. Oltre manica scatterà invece l'8 giugno la quarantena per chiunque arriverà o rientrerà nel Regno Unito dall'estero con o senza sintomi da coronavirus. Chi dovesse violare l'isolamento pagherà una multa da 1.000 sterline. Una misura che isola il paese con impatti potenzialmente devastanti sull'industria aerea e che pone domande sulla reale possibilità di controllo dei soggetti in quarantena. Infine in Russia, contati quasi 9.000 nuovi casi di contagio in un solo giorno con 150 vittime, dato giornaliero record. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo del disastro aereo in Pakistan. Un aereo pakistano proveniente da Lahore con oltre 100 persone a bordo è precipitato in una zona residenziale oggi, poco prima dell'atterraggio all'aeroporto di Karachi. Almeno 3 i passeggeri sopravvissuti. I soccorsi continuano al lavoro tra le macerie delle case distrutte nello schianto. Finora hanno recuperato una quarantina di corpi senza vita. Parliamo di Hong Kong. Oltre all'Unione Europea, gli Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e Canada esprimono profonda preoccupazione per la legge sulla sicurezza che la Cina intende introdurre a Hong Kong. Lo si legge in una dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri dei tre paesi. Nella nota diffusa dal Foreign Office, dal Ministero degli Esteri britannico, si ricordano gli impegni legalmente vincolanti sull'autonomia di Hong Kong, firmati nella dichiarazione congiunta che segnò la restituzione alla Cina dell'ex colonia britannica. Di nuovo in Italia, purtroppo, per parlare dell'ennesimo femminicidio. Una donna è stata uccisa a colpi di pistola dal compagno, che poi si è costituito alla polizia. È accaduto a Cuneo, nel piazzale dell'Ocean. Secondo le prime informazioni, la vittima ha 44 anni, di origini romene, mentre l'uomo è un italiano. E a causa della permanenza in casa nell'emergenza Covid si registra un aumento della violenza domestica. Questo è l'avvertimento a inizio quarantena dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Situazione confermata non solo dal caso di oggi, ma da centri antiviolenza, procure, polizia e Istat. Sentiamo l'anticipazione del reportage che poi andrà in onda domenica 24 maggio alle 8.15. Chiamano quando sono sotto la doccia, quando lui va a fare la spesa, quando la situazione è ormai critica, hanno paura di essere scoperte. Così raccontano dai centri antiviolenza di tutta Italia, dove le richieste di aiuto da parte di donne vittime di violenza domestica durante il lockdown sono aumentate del 70-80%, così come le telefonate al 1522, mentre le denunce sono diminuite. I centri si sono trasformati in luoghi di emergenza, racconta da Perugia Eterni Arianna Luciani, referente operatrici di accoglienza. Le case rifugio si sono riempite, sono aumentate esponenzialmente le richieste di ospitalità e le richieste d'aiuto, perché se prima una donna, prima di entrare in un centro antiviolenza, attivava altre 1.000 risorse che potevano essere un trasloco, uno spostamento da un'amica, da un parente fuori regione, tutto questo in questo momento è bloccato e quindi non rimane che chiedere aiuto alla rete antiviolenza. Dalla fase 2 poco è cambiato, le richieste continuano ad aumentare. Tra le difficoltà maggiori durante la crisi sanitaria, la disponibilità di strutture per donne e minori in attesa di possibili tamponi e fine quarantena. E da Caserta arriva un esempio positivo: in una villa confiscata alla camorra, le donne producono mascherine contro la violenza. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proseguiamo con le notizie, parliamo della strage di Capaci, l'anniversario, lenzuoli e balconi anche delle sedi istituzionali, ricordi e spettacoli in streaming, incontri a distanza. Palermo ricorderà senza i cortei e le navi della legalità l'attentato di Capaci che 28 anni fa costò la vita a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo, a tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Sarà quella di domani quindi una giornata vissuta diversamente dal passato a causa dell'emergenza sanitaria, ma con uno sguardo all'attualità che segnala una presenza costante della mafia anche nella sua dimensione economica. Lo testimonia una nuova confisca di beni, ben oltre 150 milioni, a un imprenditore di Cinisi, Andrea Impastato, presta nome di Bernardo Provenzano e Salvatore Lo Piccolo. E poi un po' di leggerezza, ma insomma, perché c'è anche preoccupazione: caccia la pantera nel Sannio. Sapete che ogni tanto in Italia compare qualche pantera qua e là, si allarga la caccia alla pantera avvistata nelle settimane scorse nei pressi di alcuni comuni della provincia di Benevento in Campania. Ora il grosso felino sarebbe stato avvistato da alcuni cittadini nel comune di Pesco Sannita, tanto che il sindaco Antonio Michele ha emesso un avviso pubblico col quale allerta la cittadinanza. Poi lo sport, purtroppo con il lutto nel mondo del calcio è morto Gigi Simoni, ex allenatore tra gli altri dell'Inter, passerà alla storia come il tecnico gentiluomo, definizione che gli calzava a pennello perché garbo e aplomb erano davvero il suo tratto distintivo. Era malato da tempo, aveva 81 anni e lo ricorderemo poi nel corso di questa puntata. Adesso musica. È uscito Rain on Me, il nuovo singolo di Lady Gaga e Ariana Grande per la prima volta insieme. Rain on Me è la seconda anticipazione del nuovo sesto album di studio di Lady Gaga, Cromatica, in uscita il 29 maggio. E ci sentiamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre tante le notizie, anche se arriviamo a fine settimana le raccolgo le più importanti dall'Italia e dall'estero per voi nella sintesi della giornata. Adesso alcune le approfondirò con gli ospiti. I vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666, dove un'ascoltatrice Laura mi chiede di ripetere i criteri per chiedere il REM, il reddito di emergenza, ma poi lo metterò direttamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte alla fine della puntata, così come anche una sintesi di una ricerca internazionale che spiega bene quali sono i sintomi per distinguere da una polmonite virale o da un'influenza piuttosto pesante quello che invece è il Covid-19. Per quanto riguarda la Movida, noi dobbiamo cogliere questa occasione per umanizzare i momenti di incontro dei ragazzi, fare in modo che non si rincretiniscano la sera, fare in modo che non ci siano solo rumori a muina, al punto che non si riesce più né ad ascoltarsi né a parlarsi. E poi cogliamo l'occasione per sviluppare non solo una campagna per avere l'epidemia zero, ma per avere anche cafoneria zero. Ecco, vorremmo far partire una campagna a questo punto anche di valore internazionale. No Boer, cafoni zero. Chiaro, cafoni zero, dice l'impareggiabile presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Barbara Fiammeri, è tutto chiaro, vero? Sì, buonasera. Ciao cara Barbara. Allora, mentre ci inoltriamo sempre di più nelle varie tappe della fase 2, la prima è stata il 4 maggio, poi il 18 maggio con le varie aperture, adesso si guarda al 3 giugno, quando si dovrebbero aprire i confini tra le regioni e le persone dovrebbero circolare, diciamo, più o meno liberamente in Italia tra le differenti regioni. Però cresce l'insofferenza da una parte di diversi presidenti di regione nei confronti della Movida. Il primo era successo in Lombardia con il sindaco Sale in realtà di Milano, che aveva visto quello che era successo ai Navigli, poi anche il sindaco di Bergamo Gori in Città Alta, fiumane di persone, la parte alta di Bergamo, molto bella, il borgo medievale, e poi anche al sud c'è Emiliano, che oggi ha minacciato di chiudere i locali se ci saranno, il presidente della regione Puglia, se ci saranno assembramenti. Nel contempo, appunto, dicevo, cresce l'insofferenza da parte dei presidenti di regione perché in vista del 3 giugno, con questo criterio di R con T, cioè il livello di contagiosità di ogni persona che sia infetta, sarà determinante per, almeno questa è la notizia che era circolata oggi, sarà determinante per la possibilità di circolare o meno e di uscire da una regione oppure no. E si era parlato addirittura, io ho fatto ero sobbalzata stamattina, della possibilità della Lombardia e delle varie regioni, insomma, di muoversi tra regioni di livello di contagio uguale. Quindi si parlava della Lombardia, la possibilità di muoversi tra il Molise e l'Umbria e così viceversa, l'Umbria, il Molise, Lombardia, una triangolazione un po' particolare, Barbara, che io mi ero detta, ma se io attraverso e passo per la Toscana, quindi devo minimamente fermarmi neanche a fare pipì, devo andare diretta in Umbria, non so, Barbara, comunque diciamo, mi facevi paracadutare mi facevo paracadutare perché oggi sentiamo che cosa ha detto Brusaferro, in parte l'ho fatto sentire all'inizio, a proposito presidente dell'Istituto Superiore di Sanità della circolazione ancora tuttora del virus. Oggi comunque ancora circola il virus da noi, questo è l'altro messaggio importante, anche se in calo, ma circola, e quindi in realtà non possiamo permetterci di allentare le misure di comportamento individuale. Possiamo permetterci di aggiungere livelli di libertà come stiamo facendo e vedere che impatto hanno queste sulle curve generali. Per cui nelle prossime settimane, credo già a partire dal prossimo fine settimana o quello successivo, certamente avremo dei dati che ci consentiranno di capire meglio come sta evolvendo questa cosa. E poi però Brusaferro, dopo alcune polemiche, oggi per esempio c'è stata a Effetto Giorno, intervistata da Alessio Maurizi, la presidente dell'Umbria, Donatella Tesei, che ha detto che è aberrante questo meccanismo, non funziona questa modalità di classificare il rischio di contagio all'interno di una regione e all'interno delle varie regioni italiane. Sentiamo ancora Brusaferro che dice: ma R con T non è proprio una pagella. Le regioni che la scorsa settimana hanno creato un grande scalpore perché avevano un RT un po' più alto, questa settimana sono chiaramente più basse. Ovviamente questo si riferisce a un RT calcolato, voi sapete, qualche giorno dopo, e quindi si riferisce in qualche modo ai primi di maggio. Cosa ci dice tutto questo? Ci dice che c'è una grande oscillazione, e questa oscillazione di RT ci dà un elemento dinamico, cioè ci spiega in qualche modo come ci sono stati pochi casi, e poterli averli segnalati garantisce anche il fatto che quel contesto regionale, quel servizio sanitario regionale è in grado di intercettarli rapidamente. Quell'RT non venga visto come una pagella, è uno strumento dinamico che ci aiuta a capire quello che sta avvenendo nella nostra realtà, ma va letto non da solo, ma va letto in combinata con gli altri dati che vi mostravo. Intanto un ascoltatore dice: ma che informazione è questa? 1000 punti interrogativi. Vi sembra normale che la magistratura tenga in ostaggio la politica? Non so, l'ascoltatore si sta ascoltando qualche altra trasmissione, perché qui stiamo parlando delle regioni, del comitato tecnico scientifico, dei livelli di contagiosità, dei criteri per muoversi dal 3 giugno tra le regioni. Non so cosa stia ascoltando. Barbara, comunque è arrivata poco fa una nota del Ministero della Salute che dice: le decisioni sulle riaperture dei confini tra regioni verranno prese sulla base dei dati epidemiologici di fine mese, che daranno un primo report sulla fase che si è aperta dal 18 maggio. Perciò sono infondate le indiscrezioni sulla possibilità di permettere lo spostamento solo tra regioni con pari livello di contagio. Però intanto questo R con T è diventato il pomo della discordia, mi sembra, Barbara. Sì, sì. Ricordiamo che l'R con T è quanto il virus si diffonde, cioè se R con 1 vuol dire che ogni persona ne contagia un'altra. Certo. Ecco, allora deve essere sotto R con 1 per evitare appunto che ci sia un contagio da persona a persona. Allora, in questo momento secondo me qualsiasi previsione per il 3 giugno è un po' azzardata, nel senso che dipenderà da come i dati andranno la prossima settimana, nel senso che noi ci stiamo avvicinando a quelli che sono gli effetti della riapertura, della prima riapertura, quella del 4 maggio, lì adesso li stiamo misurando in questi giorni, e poi vedremo gli effetti della grande riapertura, quella diciamo del 18 maggio. Soltanto quando potremo misurare questi effetti, secondo me, si capirà se davvero possiamo continuare ad abbassare il livello di protezione e quindi, ad esempio, consentire, come ha già anticipato il governo, il passaggio da una regione all'altra oppure no. Quanto al fatto che si possa pensare di chiudere, cioè come dire, di far dialogare solo regioni dello stesso che abbiano lo stesso rischio epidemiologico, mi sembra veramente un'assurdità. La cosa che si è sempre detta è che chiaramente qualora ci fosse uno o più regioni che manifestassero un rischio di contagio piuttosto elevato, significativamente superiore, probabilmente a quelle regioni, in quelle regioni e da quelle regioni forse ci sarebbero delle norme, delle prescrizioni più severe rispetto ad altrove. Cioè, è chiaro che se dovessimo assistere nei prossimi giorni che c'è un'esplosione di casi, poniamo, parlo del Lazio perché è la mia regione, ecco, ovviamente facendo i debiti scongiuri, nel Lazio, e arrivasse alla vigilia del 3 giugno, cioè del passaggio alle regioni, probabilmente se gli indicatori mettessero un faro sul Lazio dicendo che la regione è diventata con un rischio di contagio molto elevato, a quel punto mi sembrerebbe scontato che il governo adottasse delle decisioni che, più prudenziali per quanto riguarda per esempio la regione Lazio, e questo potrebbe anche valere per altre regioni. Quello che stiamo vedendo a oggi però invece è che tutti gli indici ci dicono che stanno diminuendo, cioè che il virus, come ha detto Brusaferro, continua, come dire, il suo viaggetto in Italia, meno di quanto avvenisse nelle scorse settimane. Chiaro. Però poi bisognerà appunto vedere, si naviga a vista, direi che questo è il mantra da che si è scatenata questa pandemia, no? Sì, c'è proprio un problema, secondo me, lo vediamo anche tutti i giorni. Gran parte delle persone, come dire, è disciplinata, quindi adotta la mascherina, evita gli assembramenti. Poi ci sono delle minoranze, e queste minoranze spesso sono ragazzi, ma devo dire non solo ragazzi, capita spesso di vedere persone, anche personale, cioè persone che lavorano all'interno di esercizi commerciali, ad esempio con la mascherina che è indossata sotto il naso, no? Che lascia libero il naso. Io capisco che una persona che lavora 8 ore con la mascherina non ce la fa più, però ecco, per dire, cioè ci sono... il rischio sta nella nostra irresponsabilità. Cioè, noi abbiamo limitato la diffusione del virus, questo è evidente, ma non solo noi, prima ancora di noi era successo in Cina, con il lockdown, cioè con delle misure di distanziamento molto ferree. Adesso le stiamo allentando e bisogna stare attenti, evitare che, come dire, questo allentamento consenta di al virus di rianimarsi. Quindi dobbiamo essere prima di tutto noi attenti. Ci sono dei grossissimi problemi, ma proprio di gestione. Faccio un esempio concreto, anche perché la stagione lo pone, sì, quello delle spiagge libere, cioè le spiagge dove non ci sono gli stabilimenti. Lì è un problema, perché queste spiagge che sono demanio pubblico dovrebbero essere, come dire, attenzionate dai vigili urbani, cioè dalla polizia municipale. Sentivo che Toti, che tra l'altro poco fa ha detto che il Covid era presente in Liguria molto tempo prima della sua comparsa a Codogno, dove c'è stato il caso numero 1 il 21 febbraio, parlava di possibili steward sulle spiagge a controllare, presi nel vivaio, delle persone che prendono il reddito di cittadinanza. Ogni tanto ritorna questa ipotesi, prima nell'agricoltura, sì, no? Per mancanza, sì, di mercanti. È tutto vero. Dopodiché, cioè, mentre le persone, faccio un esempio anche qui molto concreto, mentre se l'ausiliario del traffico ha quantomeno di fronte una targa, no? Per cui può fare una multa perché ha una targa, che quindi si riferisce a un proprietario dell'auto, nel caso della persona sulla spiaggia in costume, l'ausiliario del traffico non ce l'ha la targa dietro il costume, questo è chiaro. Non ha la targa dietro il costume, e soprattutto quello non è un pubblico ufficiale. Cioè, Ci sono dei problemi proprio, secondo sì, me. Sì, che su quali bisognerà pratici. Riflettere, molto pratici, addirittura sentivo parlare di prenotazioni per andare nella spiaggia libera, insomma sarà molto complesso sì, per che, tutti, sai, per chi dovrà organizzare e controllare, per chi vorrebbe godersi un po' di estate, sarà sì, complicatissimo, Barbara. E cos'altro volevo dirti? Che intanto, vedevo, allora, c'è un ascoltatore che dice, ah, sarà il solito leghista che se l'è presa, che si sente la coda di paglia, anche se... Anche non si critica la sua regione, simbolo la Lombardia, dice Claudio. No, in realtà sono state varie regioni, per esempio anche la Valle d'Aosta ha detto che c'è una grande oscillazione dell'indice sul territorio, perché oggi si era detto che era sceso dappertutto tranne che in Valle d'Aosta. Insomma, chiunque venga un po' toccato da questa cosa chiaramente si sente un po' messo alle strette. Ma diciamo anche per il fatto che chiaramente, essendo cominciata la stagione estiva, anche il Presidente del Consiglio ha detto agli italiani di andare in vacanza in Italia, in Italia prevalentemente però... in Italia. Queste sono tutte le regioni italiane, tutte in assoluto sono regioni turistiche, cioè non esiste una regione in Italia che non sia anche un polo di attrattiva turistica. Quindi chiaramente pensiamo alla Val d'Aosta, ma anche appunto all'Umbria, che come dire, si stanno rianimando adesso per attrarre anche gli italiani nella stagione turistica, certamente non fa piacere sentirsi additare come regione a rischio, chiaro. È comprensibilissimo questo. Barbara, c'è un ascoltatore, ma aveva scritto alle 21:28, quindi ora avrà capito insomma che in qualche modo non era fondata la sua accusa, diceva Robè, ma la Barbara che le inviti a fare se poi non la fai parlare? Oggi pensate che ho fatto una dichiarazione d'amore a Barbara Fiammeri, perché in qualsiasi momento io la chiami, la sveglio di notte, la sveglio all'alba, lei è sempre sul pezzo, quindi io ho dovuto dichiarare così senza pudore tutto il mio amore, Barbara. Vabbè, lo rinnovo. Amo la radio. Ah, non ami me, vabbè, la radio. Grazie. La radio. Grazie, pensavo che fossi io, ma fa niente. Grazie Barbara Fiammeri, a ben presto, un abbraccio. Grazie, arrivederci. Ciao Barbara. Allora, ci fermiamo qui momentaneamente, lo sapete, giusto per un momento di riflessione, di respiro. 349-238-6666, se volete sempre il sms WhatsApp, il numero per sms WhatsApp, oppure c'è comodamente la pagina Facebook di Effetto Notte. Torno ratta come la fuori. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie le trovate qui a Effetto Notte tutte le sere dalle 21 alle 22, da lunedì a venerdì con me Roberto Giordano, che ve le racconto, le raccolgo per voi tutto il giorno, in modo che poi vengano anche tra l'altro chiarite insieme, approfondite insieme agli ospiti. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, che è sempre numero per sms e WhatsApp. Abbiamo parlato ampiamente di questo momento piuttosto particolare e difficile e anche di insofferenza da parte delle regioni in questo inoltrarsi man mano nella fase 2, quindi l'aver paura che per il 3 giugno non tutti possano circolare, non tutte le regioni siano aperte sia al turismo sia insomma la libera circolazione delle persone con questo criterio RT, che però insomma poco fa il Ministero della Salute con una nota avrebbe detto ma no, non sarà che si potrà circolare solo tra regioni simili di livello di contagio, questa è una cosa infondata. Comunque capiremo meglio nei prossimi giorni. Mentre un ascoltatore, Francesco, dice il virus forse girava tra noi anche da molti mesi, ma difficilmente potremo arrivare a saperlo con assoluta precisione. Stanno facendo vari studi, intanto si è capito che sicuramente almeno da gennaio in Italia, e poi qualche giorno fa parlavo anche con un responsabile del centro trasfusionale del Policlinico di Milano, che ci diceva che anche con questo esame sul sangue dei donatori di sangue si è capito che già molto prima circolava il virus, e anche con testimonianze qui Effetto Notte di medici di base che avevano notato tante polmoniti anomale molto prima del caso di Codogno. Poi invece c'è un altro ascoltatore che dice ciao Roberta cara, vigili urbani per le spiagge libere, come proponeva per esempio Barbara Fiammeri, ad esempio la mia regione di nascita, la Sicilia, dice, ha oltre 1600 km di costa, di cui oltre il 95% di spiaggia libera. Quanti vigili ci vogliono, dice Andrea. Però adesso una delle notizie importanti di oggi, di cui vi voglio parlare, è quella secondo la quale il Ministero della Salute starebbe valutando la possibilità di allargare la raccomandazione della vaccinazione contro l'influenza anche ai più piccoli, vaccinazione che sarà disponibile in autunno come sempre anche ai più piccoli da 0 a 6 anni e poi le persone a partire dai 60 anni. Si amplierebbe quindi la platea dei vaccinabili, che oggi prevede la raccomandazione, la gratuità solo per i bambini e gli adulti con particolari patologie che potrebbero aumentare il rischio di complicanze, e poi per le persone oltre i 65 anni. Quindi questa è una delle ipotesi sul tavolo del Ministero della Salute, e probabilmente potrebbe essere emanata nei prossimi giorni una nuova circolare sulla vaccinazione antinfluenzale, nella quale si parlerà anche di questa possibilità, naturalmente con un occhio particolare alla presenza del Covid-19 nel nostro paese. Ma voglio chiedere un parere alla professoressa Susanna Esposito, che saluto e bentornata con Effetto Note, professoressa. Grazie mille e buonasera a tutti. Che è pediatra, infettivologa, docente di pediatria all'Università degli Studi di Parma e presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici. Che ne pensa, professoressa Esposito, di questa? Per ora è un'ipotesi, però insomma sembra che sia proprio concretamente sul tavolo del Ministero della Salute. Sono assolutamente favorevole. Consideri che già dal 2002 negli Stati Uniti viene effettuata la vaccinazione influenzale di routine dall'età di 6 mesi di vita a tutta la popolazione, dal 2002 al 2005 fino ai 5 anni di età, e poi si è allargata anche ai bambini più grandi e agli adolescenti. E negli anni successivi in una serie di altri paesi, ad esempio nel Regno Unito, si è deciso di estendere la vaccinazione influenzale a tutti i bambini sani, ad esempio nel caso del Regno Unito, per dire nella fascia di età tra 2 anni e 10 anni. In pratica le società scientifiche nel nostro paese già dal 2016 sottolineano l'importanza di raccomandare la vaccinazione influenzale nella fascia di età tra 6 mesi e 5 anni per i vantaggi che la vaccinazione determina nel ridurre la patologia influenzale, nel ridurre le complicanze da influenza, in particolare polmoniti, otiti medie acute, e anche nel ridurre l'abuso di antibiotici. Per cui questa raccomandazione deriva da un percorso scientifico che già da tempo era in atto nel nostro paese. Ma perché oggi tutto è mai importante? Perché se noi pensiamo che nei bambini Covid-19 ha dei sintomi molto simili, quando appunto sintomatico, a quelli che si osservano nella patologia influenzale, ci rendiamo conto che prevenire una patologia come l'influenza evita un carico assistenziale che è poi quello che determina gli outcome negativi, perché non dimentichiamoci che l'esperienza Covid, avendo commentato come il sistema va al collasso quando è travolto da un numero di casi molto elevato. Se voi pensate ad esempio alle famiglie con bambini che affollano gli ambulatori dei pediatri di famiglia nei mesi invernali, vi rendete conto come semplicemente ridurre del 30% quelli che sono gli accessi porta a una possibilità di gestione che sia molto più oculata, oltre al fatto che comunque sarà necessario organizzare dei sistemi ambulatoriali che prevedano l'esecuzione del tampone per ridurre i soggetti, comunque per annullare i soggetti Covid positivi che accedono agli ambulatori. Ma di sicuro è un'iniziativa molto importante. Però, da che è iniziata questa pandemia si è sempre detto che i bambini, soprattutto quelli più piccoli, tranne alcuni casi nel mondo, pochi casi, difficilmente vengono attaccati da Covid-19, o magari appunto sono asintomatici e non hanno mostrato sintomi particolarmente visibili. Quindi può darsi che possa servire questo magari anche a evitare di confondere, quando, come è successo all'inizio di questa pandemia, che si confondevano delle polmoniti e dei sintomi influenzali, pensando che quelli fossero invece era il Covid-19. Quindi in questo caso si potrebbe intervenire prima, una volta eliminata la possibilità di prendere l'influenza anche per i più piccoli, e quindi intervenire subito nel caso. Cioè, il discorso è proprio quello della confusione tra le due patologie. Non dimentichiamoci che il problema non è che i bambini hanno un rischio minore di infettarsi, ma i bambini sviluppano sintomi più lievi. Però, d'altra parte, abbiamo anche dimostrato che i bambini contraggono l'infezione in una percentuale molto elevata di casi, oltre il 70%, da genitori adulti, quindi nel nucleo familiare. Allora lei capisce che nel momento in cui noi abbiamo una patologia come l'influenza, questa si diffonde dal bambino all'adulto, Covid-19 si diffonde dall'adulto al bambino. E di fatto però il vero problema è che non si riescono poi a distinguere le situazioni, e quindi ridurre quantomeno la patologia influenzale permette di ridurre il carico del sistema sanitario e quelli che possono essere i rischi confondenti che le due infezioni determinano. Professoressa, tra l'altro oggi c'è stata una riunione presieduta dalla ministra delle pari opportunità della famiglia Bonetti, con vari altri ministri, sottosegretari, eccetera, perché dice stiamo cercando di estendere le linee guida anche per i bambini da 0 a 3 anni per la ripresa della scuola, quindi degli asili nido, dei centri estivi, no? Ecco, lei che cosa pensa? Perché ci sono, oggi sono state anche in questi giorni manifestazioni di genitori con i bambini piccoli, perché dicono avete pensato a tutti, tranne a loro, sono i più dimenticati. Che cosa pensa anche per l'apertura di possibili centri estivi? Giusto io un commento. Sono assolutamente favorevole. Quando il ministro Bonetti aveva così dato il placet all'iniziativa dell'ora d'aria, non mi aveva visto favorevole, perché in quel momento, parlo dell'inizio di aprile, quindi era il periodo attorno a Pasqua, la situazione epidemiologica non era tale da poter permettere una circolazione allargata di popolazione e il vantaggio dell'ora d'aria, la passeggiata per i bambini, non era un vantaggio così significativo da poter contribuire alla loro formazione, o comunque non sarebbe stato un problema il fatto di posticipare il tutto. Il lockdown prolungato ha permesso di ridurre in maniera drastica la circolazione del virus, questo lo vediamo in maniera anche molto chiara, ma proprio in maniera lampante, soprattutto per chi vive nell'area a rischio, per chi lavora negli ospedali, che hanno visto alti numeri. Quindi il fatto di organizzare dei centri estivi che prevedono però misure di sicurezza, ad esempio attività meno basate sul gioco che in precedenza, con un uso sistematico delle mascherine da parte degli educatori e comunque anche da parte dei bambini laddove ci siano situazioni di assembramento, è assolutamente importante ed essenziale proprio al fine di evitare eventuali rischi. Certo però quello che possiamo dire è, devo dire, l'ho anche di recente pubblicato su una rivista che si chiama JAMA Pediatrics, che è una rivista di per sé molto prestigiosa, il fatto di tenere le scuole chiuse non sembra essere contro coronavirus la chiave vincente. E le assicuro che io mi sono anche ricreduta rispetto a quanto inizialmente, sulla base di quanto determina l'influenza, pensavo. Cioè, inizialmente pensavo, come per l'influenza, che la chiusura delle scuole favorisse la riduzione della circolazione virale, ora sappiamo che i bambini si infettano prevalentemente in famiglia. E quindi, siccome abbiamo da una parte i genitori lavoratori, che è giusto che proseguano la propria attività lavorativa e che la riprendano, dall'altra il fatto che i nonni sono comunque dei soggetti a rischio di complicanze, il fatto che i bambini possano, in assenza di rischi consistenti, perché non dimentichiamoci che il lockdown ha cambiato completamente la situazione epidemiologica attualmente, porta a far sì che la ripresa delle attività scolastiche, comunque ricreative, come quella dei centri estivi, sono assolutamente importanti e hanno significato che rappresenta anche in questione, ecco, per gli anni stessi. Professoressa, abbiamo solo un secondo, però c'è questo ascoltatore, la prego di dire sì o no, è disperato, dice aiutatemi, sono separato, posso portare mia figlia a casa mia della compagna e dalla sorellina con o senza mascherina? Abbiamo proprio pochi secondi. In casa senza, benissimo. Assolutamente. Quando si è fuori, quando si cammina fuori con la mascherina, ma in casa senza. Grazie professoressa Susanna Esposito. Grazie e buona serata. Grazie e buona continuazione. Voi, grazie, viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi. Sapete che un grosso problema in Italia, in particolare in Lombardia, ma poi in tutta Italia e anche in buona parte del mondo, è stato quello del contagio che ha decimato le persone grandi di età, le persone anziane nelle case di riposo e nelle residenze sanitarie assistite. In Italia in particolare è, diciamo, sotto la lente il Pio Albergo Trivulzio, che è la più grande struttura geriatrica d'Italia ed è a Milano, e oggi c'è stata una manifestazione di protesta da parte dei familiari delle vittime, vero Raffaella Calandra? Ciao Roberta. Ciao Raffaella. Sì, è vero, davanti, più che, sì, insieme alla protesta c'era una sorta di funerale laico, cioè si sono ritrovati davanti ai cancelli del Pio Albergo Trivulzio i familiari delle tante vittime di questa struttura, divenuta un po' il simbolo di tutto quello che è successo nelle case di riposo di tutta Italia, ma soprattutto della Lombardia, per portare fiori intorno a questo grande lenzuolo bianco divenuto una sorta di lapide dove erano scritti tutti i nomi delle vittime, ma anche per tornare a sollecitare risposte su quello che è successo in questi mesi, ma anche per avere un quadro di quello che sta succedendo adesso, perché Le strutture continuano ad essere chiuse rispetto a visitatori esterni e quindi c'erano anche diversi familiari di anziani che tuttora restano all'interno della struttura, che reclamano in qualche modo rassicurazioni e anche chiederebbero di avere la possibilità di incontrare i loro familiari, che ovviamente anziani, fragili, anche solo per dire che non sono abbandonati, mi hanno detto alcune delle persone. Perché non è ancora possibile vedere, insomma, i propri familiari lì nelle... Esatto. La chiusura. Ma si capisce perché? È solo una questione di sicurezza, Raffaella, o c'è quello dell'altro? Perché non possono vedere proprio madre e padre? Ovviamente sono state chiuse per una questione di sicurezza, come ben ricorderai, perché appunto chiunque dall'esterno potrebbe essere il veicolo di contagio, nei confronti di persone che sono le più fragili, le più esposte. Però è anche vero che soprattutto su delle persone molto anziane anche la componente emotiva è altrettanto importante, per cui molti reclamano la possibilità di organizzare con tutte le cautele del caso, con delle barriere di plexiglass, oltre che con tutte le famose mascherine che invece nei mesi più duri e nelle settimane più dure hanno denunciato non fossero utilizzate, per poter in qualche modo avere un riscontro visivo diretto con i loro familiari. Certo. Ecco. Che è una bella tortura. E questa è stata... Esatto, anche perché ovviamente sappiamo che cosa significa per le persone più anziane, non sempre perfettamente lucide e non sempre in grado anche di comprendere le ragioni di questo isolamento, che viene mitigato con queste videochiamate fatte nel corso della settimana, ma ovviamente soprattutto ad una certa età non è la stessa cosa. Nel frattempo, come ricordavi, vanno avanti anche le inchieste a Milano, più di una ventina, ma vanno avanti anche nelle altre città lombarde, e oggi il procuratore generale di Brescia, quindi la Corte d'Appello, che in qualche modo raggruppa anche Bergamo, Cremona, quindi altre città fortemente colpite, ha parlato delle altre inchieste aperte anche con dei nuovi indagati, inchieste che chiamano in causa anche vertici del governo e rappresentante della regione per comportamenti omissivi rispetto alle famose mancate zone rosse. Quindi ci aggiorneremo su queste inchieste così importanti che fanno luce su quello che è successo soprattutto appunto nelle RSA. Grazie a Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. E buona serata. Invece con il nostro Carlo Genta, caro Carlo, ciao. Ti trovate ciao Roberta. Tutti i giorni alle 14 con tutti i convocati, è convocato anche qui Effetto Notte per una istantanea, una Polaroid di Gigi Simoni, grande tecnico e gentiluomo, come è stato definito, no? Che se n'è andato oggi a 81 anni, Carlo. Sì, Roberta, guarda, oggi parlavamo con Beppe Severgnini proprio di... Questo è un giorno molto importante per l'Inter e per l'interismo, perché è il compleanno, il decimo compleanno del triplete, quindi dei tre titoli conquistati dall'Inter nel 2010 con la Champions League. Ebbene, proprio oggi è arrivata questa notizia della morte di uno degli allenatori iconici per l'interismo, perché è Gigi Simoni. Ma al di là di questo, tutto il mondo del calcio, perché era un personaggio profondamente amato trasversalmente, o comunque profondamente rispettato trasversalmente da tutte le tifoserie del calcio, perché oggi se n'è andato a 81 anni e ha attraversato il mondo del calcio da giocatore e da allenatore per una sessantina d'anni, quindi era molto conosciuto e molto rispettato. È questo che ho voluto sottolineare, e abbiamo voluto sottolineare oggi il fatto che comunque sia stato un personaggio non legato particolarmente ad una bandiera, ma ad una professione che ha molto importante e che ha così unito tutte le tifoserie d'Italia, non solo dell'Inter, in un giorno così particolare, strano, felice, ma velato di tristezza per l'Inter. Che non è una cosa da poco, questa di essersi distinto appunto non per appartenenza particolare a una bandiera, e anche per il suo garbo, no? Che non sempre nel calcio, diciamo, è così diffuso. Brava, esatto, proprio così. È proprio così, cioè tutti quelli, cioè dopo 60 anni in cui ha attraversato il mondo del pallone in questo modo, se tu dici Gigi Simoni, era una persona per bene, era un gentiluomo, ed è questo che è stato sottolineato da tutte le parti in un giorno, ripeto, così divisivo e così importante, in cui anche il presidente Moratti ha avuto una battuta secondo me infelice, quando probabilmente velato dalla tristezza e dal mix di emozioni di questo giorno, in cui ha detto che gli hanno tolto uno scudetto che doveva essere suo, gliel'hanno sottratto, era quello del famoso Inter-Juventus di Giuliano Ronaldo, che è diventato un'icona del calcio italiano, e Simone era l'allenatore dell'Inter di Ronaldo, e quindi è ricordato certamente anche per quello, Roberto. Grazie Carlo Genta di questo ricordo. Ciao Carlo. Un abbraccio. Ce lo porterà il raggio di sole il nostro Paolo Corazzoni di Trevi Meteo, è vero? Buonasera Roberta, ma ci provo. Sei già tu il raggio di sole. Ti dirò un per grazie, anche se in realtà appunto questo weekend un po' a due facce, come dire, si parte con il sole, con temperature molto alte, domani molto alte, nel senso quasi estive, 30 gradi al nord e sul Tirreno, prego, domani sera, sorpresa, temporaloni sul nord Italia, purtroppo sì, domani sera, però guarda, se ne vanno domenica mattina probabilmente in saranno ancora in parte l'Adriatico, il medio alto Adriatico, ma quindi sono abbastanza veloci, però effettivamente domenica magari giornata un po' più frizzantina al nord e sull'Adriatico, appunto con un minimo di variabilità, quindi no dai, weekend più che discreto, però con questa interruzione sabato sera, quel temporale che potrebbe essere un po' fortini. Però in ultimo, Roberta, devo uscire tra di mezzo con le indicazioni per l'estate, con ogni probabilità sarà una bella estate mediterranea, quindi ci attendono mesi con tanto sole, e rovescio la medaglia che probabilmente in più occasioni suderemo parecchio quest'estate, estate molto calda. L'importante, come te, l'importante è potersela godere, guarda, speriamo di potersela godere. Davvero, grazie, buon tempo a te comunque sia, caro Paolo Corazzoni di Trevi Meteo, a ben presto. Ciao, buon tempo a tutti. Ciao Paolo. Sentiamo un momento.